2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 14 e 15 luglio 2012. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete raggiungerci anche durante la settimana è 2024@radio24.it. Naturalmente vi ricordo che abbiamo anche una pagina su Facebook che potete utilizzare per i vostri messaggi. In alternativa alla posta elettronica potete utilizzare anche Twitter o altre cose che vi venissero in mente che magari volete suggerirci. Comunque per il momento abbiamo limitato la nostra presenza sui social network a Facebook e Twitter. In questa puntata di 2024 parleremo di sicurezza nell'accesso ai nostri dati. Questo è un tema molto importante visto che la nostra vita si sta gradualmente digitalizzando e quindi abbiamo sempre più dati, ma soprattutto pensate alle aziende, ai piccoli uffici, ai professionisti, quanti dati digitali, a volte anche dati sensibili, hanno e devono distribuire, devono utilizzare anche quando sono in movimento. Quindi l'accesso sicuro ai dati è sicuramente un aspetto molto importante. Questo tema viene spesso affrontato, ci si pensa molto spesso, o meglio, ci si dovrebbe pensare molto spesso quando si valutano soluzioni cosiddette di cloud computing, visto che il cloud è non solo, ma in buona parte anche un accesso a dati remoti che risiedono appunto nella nuvola. Beh, che questo sia fatto in modo sicuro è molto importante. A proposito di cloud computing, troppo spesso viene confuso il cloud con la sola capacità di storage online, cioè la possibilità che io ho, grazie a tanti servizi che stanno nascendo, di salvare, archiviare online e quindi fuori dalla mia infrastruttura, anche fuori da casa mia, nella rete, dati. Beh, questo è sicuramente un aspetto interessante, importante, comodo del cloud computing, ma ci sono, soprattutto per le aziende, ma se pensate poi in definitiva anche per noi che stiamo in casa o in ufficio, vogliamo utilizzare servizi molto semplici come la posta elettronica, servizi in the cloud che vanno al di là della pura archiviazione del dato. Ad esempio, se noi utilizziamo un servizio di webmail, beh, quello è in the cloud, e quindi quando si parla di cloud computing bisogna considerare anche ad esempio l'affitto, quando questo non è naturalmente gratuito, di un software per fare determinate cose. Ma se ci vogliamo spingere ancora più in là, buona parte dei servizi cloud computing sono proprio relativi alla capacità di computing, cioè la capacità di calcolo, e quindi noi possiamo, senza aver server, macchine in casa o in azienda, affittare capacità di calcolo per fare, che ne so, disegno industriale, per fare calcoli complessi. Abbiamo bisogno di server di un certo tipo con processori di un certo tipo. Benissimo, ci sono tantissimi servizi che ci affittano questa capacità di calcolo, quindi non solo è possibile affittare, laddove appunto non è gratuito, spazio in remoto, ma anche affittare software, capacità di calcolo, cioè per esternalizzare, per portare fuori dalla propria azienda, dalla propria infrastruttura, tutta una serie di cose che ancora oggi in molti utilizzano in casa. Ma a questo punto uno potrebbe domandarsi: ma tutto ciò è sicuro? E su questa parola sicurezza in tutto il mondo si dibatte moltissimo, perché la sicurezza del cloud è un aspetto molto importante, perché si sta dicendo si esternalizza qualche cosa che naturalmente transita sulla rete, quindi il controllo di questo trasferimento di bit, di file, di dati è estremamente importante. Per parlare di alcune di queste cose, non di tutto, anche perché avremo bisogno di ore e ore e ore, è con noi Enrico Pappolla, che è responsabile delle vendite in Europa di iTwin. Benvenuto a 2024. Grazie. iTwin è una società che in qualche modo si occupa di cloud, potremmo dire. Diciamo che iTwin è un'azienda che si occupa di accesso remoto. quindi ovviamente quando si parla di accesso remoto si può parlare anche di cloud, di tutti cloud pensano al cloud. Quindi voi parlate di accesso remoto ai dati e sottolineate che questo deve avvenire in modo sicuro, e non sempre è così, e proprio per questo voi sottolineate l'importanza di valutare soluzioni che mettano la sicurezza in primo piano. Questo significa che, ad esempio, pensando al cloud, poi abbiamo detto cloud non è solo accesso a file che risiedono in remoto nella nuvola, in the cloud, ma questo sicuramente è un aspetto importante. Significa che non è mica detto che il cloud sia così sicuro come molti pensano? Quasi tutte le soluzioni di cloud mettono a disposizione dei sistemi sicuri per poter trasferire i file dal proprio computer verso il server che sta sul cloud. E il problema è capire quello che succede quando questi file finiscono in un server di terze parti. E quindi nella maggior parte dei casi, questo lo dicono i vari contratti che uno va a sottoscrivere con un server, un cloud storage provider, dicono molto chiaramente che lo stesso operatore può essere in grado di vedere i tuoi file, di leggerli. Sì. Quindi è qui che il punto è un po' dolente per quanto riguarda il cloud storage di oggi. La privacy dei propri dati è, se non in pericolo, comunque quantomeno potenzialmente in pericolo. Allora, tu hai fatto riferimento ai contratti che tutte le persone che utilizzano questi servizi, giustamente diciamo, sottoscrivono. In realtà si dice accetta e poi nessuno va a leggere, nessuno li legge quello che c'è scritto. Però effettivamente, tecnicamente, ma non solo tecnicamente, chi ci protegge questi dati, chi ci copia questi dati, ce li mette a disposizione in tutto il mondo, perché è indubbia la comodità dei servizi di cloud storage, in questo caso, quindi di archiviazione nella rete internet di questi servizi. Allora è indubbio che questi servizi sono comodi. Però effettivamente voi dite attenzione, perché non diciamo chiunque, ma almeno le persone che ci offrono questo servizio possono accedere ai propri dati. Voi che cosa suggerite per essere sicuri al 100%? Ma la soluzione che suggeriamo noi e che proponiamo tramite il nostro dispositivo iTwin è quella di rendere privati i dati prima di essere portati sulla nuvola, sul cloud. Quindi iTwin, che è un dispositivo hardware composto fisicamente da un cryptochip su standard USB. Vedendole sono due chiavette sembrano, USB accoppiate. Sembrano due chiavette USB, ma in realtà non lo sono, in realtà è solo la forma. E iTwin cosa fa? Cripta, quindi cifra i dati localmente sulla tua macchina con una chiave che viene generata dal token di iTwin, quindi una chiave assolutamente privata che solo lo stesso dispositivo conosce, neanche l'utente che usa iTwin, e una volta criptati i file vengono automaticamente inviati sul tuo cloud storage preferito, diciamo così. Quindi di conseguenza dall'altra parte non vi è la possibilità di leggere i dati, perché sfruttando la tecnologia, lo standard di crypting AES256, che è attualmente uno standard inviolato, il gestore del cloud storage, il dipendente infedele, oppure anche, lasciatemelo dire, se lo stesso cloud provider è costretto a dare a terzi i dati che ospita per conto di un utente sulla propria piattaforma, nessuno è in grado di leggere, perché ad oggi AES256 è uno standard di sicurezza, di crittografia assolutamente inviolato. Sì, questo è interessante. Cioè tu dici, se noi utilizziamo un servizio per archiviare i nostri dati in rete, utilizzando e crittografando i dati con la soluzione che voi proponete, nemmeno quando la guardia di finanza, la magistratura, va a bussare alla porta di questo gestore di questo servizio, che ne so, Dropbox, facciamo un esempio pratico, giusto così ci facciamo capire da qualche milione di persone, certo, che già lo utilizza, se insomma, le forze dell'ordine vanno a richiedere questi dati sono illeggibili. cioè dovrebbero venire da noi direttamente per chiederci la chiave. Certo, e quindi sta all'utente decidere il da farsi. Sì. È importante anche sottolineare il fatto che AES 256, così come viene proposto da noi, è molto diverso da quello che vengono fatto da altre soluzioni di tipo software. Perché in molti casi quando vi è una piattaforma software vi è degli aspetti di debolezza maggiori rispetto a un dispositivo fisico che genera una chiave AES 256, e allo stesso tempo in molti casi anche nell'utilizzo di software questi necessitano di essere supportati dalla fornitura di una chiave AES 256 esterna. Sì. Cioè è il fornitore del software che genera la chiave per te, quindi siamo al punto di partenza. E quindi non un dispositivo del tutto sicuro. Sì. Senti, noi abbiamo fatto riferimento a servizi tipo Dropbox, ma che sono ormai disponibili e offerti da tante altre aziende. Voi questa soluzione la state preparando, giusto? Cioè, certo. La vostra soluzione base è fatta in un altro modo. La nostra soluzione base è ad oggi un'alternativa al cloud storage, nel senso che iTwin è una soluzione che permette di creare una sorta di VPN privata e protetta tra due computer, quindi uno locale che può essere lasciato nel proprio ufficio o a casa e uno remoto, e di conseguenza accedere ai file che sono ospitati sul computer remoto in assoluta libertà e sicurezza. E all'interno di questa soluzione abbiamo implementato questa ulteriore caratteristica proprio per creare anche una simbiosi tra ciò che offre oggi iTwin e ciò che lo offrirà nei prossimi mesi. Tu hai sottolineato il fatto che stiamo parlando di una sicurezza hardware, quindi per accedere ai nostri dati è necessario avere una di queste due chiavette. Assolutamente. Che da un certo punto di vista potrebbe essere vista come una limitazione, perché se io utilizzo il classico Dropbox accedo da qualsiasi computer del mondo, da qualsiasi parte io sia, basta che io abbia internet, mi devo ricordare la mia password e accedo ai miei file. In questo caso devo avere la chiavetta. Certo. Giusto? Occorre avere iTwin, sì, certo. E voi dite, questa però è la sicurezza. Assolutamente. È quello che dobbiamo pagare in termini di sicurezza. È come l'utente che decide di lasciare aperta la porta di casa perché è più comodo, no? Certo. Anziché chiudere con la serratura con la propria chiave. Senti, uno potrebbe domandarsi, vabbè, ma perché non girare con una chiavetta USB di qualche giga e i miei dati li tengo direttamente sulla chiavetta USB? Per il semplice motivo che se tu dovessi perdere la chiavetta USB anche con dati crittografati, hai perso tutti i tuoi dati. Mentre con iTwin i tuoi dati non sono su iTwin, ma sono o sul cloud oppure nel tuo computer di casa o d'ufficio, e quindi se perdi iTwin perdi nient'altro che un cryptochip, un token, un pezzo di ferro sul quale non vi è nessun dato. Certo. Senti, quando voi incontrate le aziende, perché immagino che questo sia un servizio pensato soprattutto per piccoli uffici, piccoli professionisti, per chi ha effettivamente necessità di mantenere sicuri, ma sicuri stiamo dicendo con la S maiuscola e sottolineato, i dati, ok? Che tipo di reazione c'è? Perché effettivamente il cloud è al di là della moda, perché è anche un bel nome, un bel trend di cui si parla molto, però effettivamente sono anche servizi molto comodi. E voi arrivate, dite attenzione però perché questi servizi non sono così sicuri come molti vogliono far credere, ed effettivamente questo molti esperti lo ricordano, però voi introducete un elemento di minor comodità da un certo punto di vista, perché dite guarda che questo è comodissimo, bellissimo, fantastico, meraviglioso, ma non è sicurissimo. Qual è la reazione? Innanzitutto vi è sicuramente una parte di utenti che comincia a essere molto più sensibile sul tema protezione, privacy dei dati e sicurezza nell'accedere ai dati. Quindi di fatto vi è un costante, per fortuna nostra, anche aumento di richieste, perché c'è questa sensibilità sì, che sta aumentando sempre di più. D'altra parte quelli forse più scettici, come si diceva prima, per quanto concerne la fruizione del servizio, devo dire che proprio perché si tratta di un dispositivo di pochi grammi e tanto quanto portarsi dietro la chiavetta USB, come si diceva qualche minuto fa. Quindi alla fine non c'è un impatto di scomodità, non riscontriamo questo. Vi è più da parte nostra un'azione nel far capire quelle che sono proprio le limitazioni attuali delle altre soluzioni. Vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 e naturalmente scaricare settimana dopo settimana anche 2024. Questa puntata sarà disponibile poco dopo il termine della nostra trasmissione. Stiamo parlando di sicurezza nell'accesso ai dati. È molto importante, la nostra vita, le nostre aziende sono sempre più digitali e naturalmente nella digitalizzazione ci sono innumerevoli vantaggi, ma ne parliamo tutto l'anno, a 2024. Ma è ovvio che bisogna essere sicuri che questi dati transitino all'interno della rete internet in sicurezza. Ormai dobbiamo scambiare dati con tutto il mondo, anche noi quando viaggiamo abbiamo bisogno di accedere ai nostri dati in remoto, questo è molto importante che avvenga in modo sicuro. Infatti il messaggio che vogliamo dare con la puntata di oggi è che tutte le volte valutiamo una soluzione che in qualche modo ha a che fare con la rete internet, con il cloud computing, dobbiamo sempre sottolineare, evidenziare il capitolo sicurezza. Facciamoci delle domande. Tutto ciò è sicuro? Quanto siamo sicuri che i nostri dati siano integri, che nessuno li possa modificare, guardare, leggere? Sono storie incredibili di dati rubati, copiati, spiati, perché non è stata valutata sufficientemente la sicurezza dell'accesso ai dati. Stiamo parlando con Enrico Pappolla, che è responsabile vendite in Europa di iTwin. Naturalmente iTwin presenta la propria soluzione, ma come dicevo, il messaggio che vogliamo trasferirvi è quello di valutare tutte le soluzioni disponibili sul mercato e naturalmente poi ogni azienda, ogni individuo, perché naturalmente stiamo parlando anche di problemi che riguardano la nostra sfera personale. Perché non è bello sapere che ne so, le fotografie della nostra famiglia vanno in giro. È anche vero che chi in questo caso c'è chi dice: ma a chi interesserebbe avere le mie foto? Beh, non si sa mai. Dunque, Pappolla, abbiamo parlato di iTwin, questo token che serve per, diciamo, crittografare, quindi è la chiave di sicurezza dei nostri file, per trasferirli da un punto all'altro e per accedere in modo sicuro. Ma se perdo questa chiave, che cosa succede? Beh, innanzitutto la soluzione base viene fornita con due iTwin, quindi di fatto la chiave di cifratura è su entrambe le metà di iTwin, quindi uno può viaggiare con una metà e l'altra lasciarla magari a in casa e un ufficio. Sì. Allo stesso tempo, siccome abbiamo pensato a fare in modo che questo tipo di servizio sia fruibile da molti o infiniti utenti, la soluzione iTwin dà la possibilità di associare più chiavi tra di loro e quindi in teoria da un lato raggiungiamo una multiutenza senza limitazioni, dall'altra parte uno può anche avere la possibilità di crearsi due chiavi, diciamo, di riserva da tenere a casa o in ufficio, quindi in caso di perdita poter recuperare i propri dati. Ah, quindi ci potrebbe anche moltiplicare, dico, tengo certo 100 chiavi, sì, di scorta. Oddio, credo che quello sia un pazzo, perché però alla fine va, diciamo così, a... Però tu mi stai anche dicendo che se ho 1000 dipendenti posso assolutamente prendere 1000 sì chiavi, che possono accedere agli stessi dati. Assolutamente sì, e questo ovviamente è anche un punto di forza non indifferente, perché poi possiamo decidere anche di assegnare livelli di accesso diversi agli utenti. Sì. Quindi... Senti, voi date anche, oltre che questa soluzione, che però, come abbiamo detto, nella versione base sfrutta lo storage o la capacità di archiviazione che ho io sul mio computer, certo, sui miei server in azienda, mi date anche un servizio di storage esterno? Cioè fate anche cloud? No, assolutamente no. Noi diamo rendiamo, diciamo così, assolutamente indipendente e privata la soluzione. Sì. Quindi se uno non vuole utilizzare il cloud storage può utilizzare i Twin nella sua forma tradizionale, quindi crearsi il proprio cloud storage a casa, perché non dimentichiamolo, basta avere un PC con un hard disk anche esterno se si vuole, un hard disk di rete, si lascia una metà di iTwin su questo dispositivo acceso e connesso a internet, e quindi di fatto quello ti sei già creato la tua unità di cloud storage. Senti, privata. Tento di bucare il sistema, ma se uno invece di usare questa cosa con un altro sistema rende indecifrabile il file, cioè usa altri sistemi per crittografare il file, poi lo spara nel cloud, non raggiunge lo stesso obiettivo. E, come dicevo prima, le soluzioni software hanno dei limiti che possono essere come, che tipo di chiave AES viene generata, come viene generata e soprattutto non dimentichiamoci mai che nel caso di perdita o di furto del computer sul quale sono state fatte queste operazioni, nella maggior parte dei casi tu sei esposto, perché la chiave è comunque mantenuta a bordo del computer e del software che l'ha generata. Certo. Ci sono soluzioni di cloud storage che fanno questo tipo di servizio, ma anche in questi casi è sempre il problema di che cosa possa succedere se ti si rompe il PC, te lo rubano. Cioè, la differenza è, credo, è più abbastanza evidente tra una protezione di tipo software e una protezione di tipo hardware. E soprattutto poi non dimentichiamoci che iTwin si sovrappone a quello che è il servizio di cloud storage già presente su una Dropbox o su una Google Drive o su un iCloud. Quindi di fatto tu hai due livelli di protezione separati uno dall'altro. Significa che se anche dovessi perdere o ti venissero rubati, come purtroppo è capitato molte volte, la tua username e password del Dropbox di turno, dall'altra parte tu hai il token di iTwin protetto da una sua password e viceversa. Sì. Quindi, senti, quanto costa? Il prezzo è di 99 euro a coppia. Quindi se ho 1000 dipendenti mi fate uno sconto? 1000 dipendenti sicuramente uno sconto. Ci mettiamo d'accordo. Assolutamente. Senti, volevo capire, visto che tu ti occupi di Europa, noi in Italia siamo sufficientemente attenti alla sicurezza? Perché uno utilizza tanti servizi, fa tante cose, non pensando alle conseguenze. È un po' come il backup, si fa quando si sono persi tutti i dati. Ma purtroppo direi ad oggi siamo sicuramente un po' più indietro rispetto ad altri paesi, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo consapevole del cloud in relazione a quello che dicevamo prima, cioè la tutela e la privacy dei propri dati. In Italia c'è una ricerca, credo che possiamo citarla, una ricerca recentissima fatta anche da Microsoft, pubblica, uscita in questi giorni, in cui si dice che solamente il 14% degli italiani presta le dovute attenzioni alla tutela e alla privacy dei propri dati sul cloud, contrariamente a un 46% dei tedeschi e il 50% degli inglesi che sono ancora più attenti alla privacy dei dati sul cloud. Pensavo che fossero ad un livello più alto tedeschi, inglesi, eccetera. Ma è perché molto probabilmente alla fine siamo un po' condizionati dalla semplicità d'uso di quello che si diceva prima, no? Sì, perché effettivamente, e dal tipo di utilizzo che si fa. Sì. Perché effettivamente, questo è vero, la sicurezza richiede uno sforzo aggiuntivo. Certo. Cioè devi fare un po' di fatica in più. È per quello che abbiamo creato i Twin. Abbiamo coniugato l'assoluta semplicità d'uso con un'economicità e allo stesso tempo la massima sicurezza che un dispositivo di protezione hardware può offrire. Bene, io ringrazio Enrico Papolla per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro, a presto. Grazie. Poi naturalmente dipende anche dal settore in cui si lavora. Ci sono settori che sono assolutamente obbligati ad avere un livello di sicurezza incredibile, altri settori che forse si possono permettere un livello inferiore. Ma, come dicevo anche durante la trasmissione, visto che la digitalizzazione di questi strumenti è sempre più spinta, e questa è una buona notizia, la sicurezza deve crescere proporzionalmente e contemporaneamente. Questo è 2024, abbiamo concluso questa puntata, siamo nella versione estiva, una mezz'ora il sabato nel pomeriggio di Radio 24 e una mezz'ora la domenica nel pomeriggio di Radio 24. Vi lasciamo adesso ai programmi della nostra radio, che potete trovare anche sul nostro sito internet www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie ai nostri tecnici. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook nella nostra pagina, dove potete lasciare un vostro messaggio. Potete seguirci anche su Twitter cercando 2024 oppure Enrico Pagliarini. È tutto per questa puntata, un buon ascolto con i nostri programmi, appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds anywhere.